E invece no, non è un problema di etichetta. Non è perché ho scritto Bad Religion sulla maglietta. Perché penso che in certi gesti